fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Siete in diretta dal convento di Lonato, questa è la web radio del nostro locale. Io sono Master Nick, ma soprattutto sono in compagnia di alcuni dei festeggiati di questa serata, di questo nostro sabato Dinner and Dance. In particolare questi ragazzi rappresentano un gruppo un po' più numeroso, che però hanno lasciato fuori in pista, intento a ballare e come dire, divertirsi ballando appunto, e però è una serata importante per loro, un bel ritrovo, e quindi vogliamo condividere qualche minuto della loro festa e farci raccontare qualcosa appunto da loro. Vai con le presentazioni. Sono Greta. Greta, benvenuta. Sabrina. Sono Daniel. E Daniel, benvenuti. E da dove venite intanto? Tutti da Bienno, un paesino in Valle Camonica. Bienno in Valle Camonica. D'Italia. Sì? Terzo borgo più bello d'Italia, pensate. Ma cioè premiato in che anno? Premiato nel 2000 e sempre. Nel 2000 e sempre, bella, bella. Greta, avanti. Le votazioni. E avete, avete votato voi? No. Ah, no, ok. No, no, conosco che non c'è una bandiera o qualcosa del genere, si mette. Cioè, sì, esatto. Cioè, esatto, c'è una bandiera simbolica. Quindi terzo borgo più bello d'Italia. Ora, allora. Fino a ieri, adesso fino a sono ieri. Le votazioni per quest'anno. Ah, sì? Sì, le state facendo momentaneamente. E come si diventa miglior borgo d'Italia? Cioè, che caratteristiche devi avere? A parte che ci sia un abitante che si chiama Greta, questo è. Oh, è scritto. No, no, no, questo è proprio scritto nella Costituzione, anche proprio nella Costituzione italiana, l'articolo 2. Articolo 2. Articolo 2, Lavigatti deve esserci. Articolo 3, per diventare miglior borgo deve avere una simpatia caratteristica. Una simpatia caratteristica, sì. Una simpatia particolare, ad esempio Bienno è il borgo dei maghi, è il ferro, è un paese caratteristico. Mulini. Abbiamo Cristo Re, proprio Cristo Re. Vabbè, vero, ah no, pensavo vero. Vero. Dopo Rio de Janeiro ci siamo noi. No, in realtà davvero? Vero. Ce l'hanno copiato, pensate, vedi che si imparano sempre delle cose in più. Quindi Bienno, bene, bene, bene. E vabbè, le caratteristiche sono, cioè, soggettive, non è che oggettivamente devi avere degli elementi, no, basta che siano rappresentativi di. Ok, ok, perfetto. Ci sono due nostri compaesani che vorrebbero partecipare. Volete venire? Aggiungersi? Non so, lei non li vuole, ha detto che gli stanno antipatici. No, anche lui stanno entrare loro due. Quarti invece che terzi. Esatto. Che ah, perché dici che facendo parlare loro vi fanno regredire in classifica. Ah, vedi, cioè, sono anche, come dire, ci tengono anche alla loro identità, al loro paese, vedi che vogliono tutelarlo e mantenere questo podio. Bene, bene, bene. Allora, venite da Bienno, ma questa sera cosa festeggiate? Cioè, state festeggiando il terzo posto? Ah no, pensavo festeggiaste il terzo posto nei borghi. No, no, no, quindi la festa di Croschetti. L'annata. L'annata? Il 96, la migliore. Il 96, la migliore, questo era fuori di discussione, fuori di discussione. Cioè, perché c'è Greta, ovviamente. No, tra l'altro volevo dirvi che io sono abbastanza appassionato e ferrato in materia. Hanno cominciato a votare i borghi dal 96 e stranamente Bienno è entrato in classifica in quell'anno. Qualcosa vorrà dire, qualcosa vorrà dire. E io, sì, cioè, insomma, si fa 2 più 2, si capisce il motivo. E fondamentalmente, insomma, quando poi c'è anche una particolarità che, se volete, vi dico: quando c'è stata la prima votazione nel 96, Bienno non è stata votata come Bienno, ma come Greta. Cioè, hanno tutti tirato sui bigliettini, hanno detto Greta, Greta, Greta, e hanno detto: ma che paese che è? Greta? Ah no, volevamo dire Bienno. Cioè, nel senso, il legame Greta-Bienno è così forte che quando mi dici Greta, dici Bienno. Esatto. Hai visto? Esatto. Hai visto? Incredibile. Ci sono tanti aggettivi che ci rappresentano. Infatti, lei offre davvero a tutti. Sì? Tutti, no, ma lei, cioè, tempo di diventare almeno quasi trentenne, si candida come sindaco. È troppo giovane, perché... Esatto, appena diventa un po' trentenne, diventa apre sindaco. Apre quei due. Lei è interessatissima, vuol provarci con quei due ragazzi lì, perché vuole farli parlare. È interessatissima. E allora, classe 1996, quanti siete stasera? 14. Ma bene, lui è il notaio del gruppo, lui tiene i conti, lui tiene il bilancio. Ah sì, vedi, beh, ci vuole anche quel ruolo lì, cioè, come c'è il butta dentro in discoteca, c'è anche la calappiatore, esatto, di donne. Molto bene. E come hai fatto a raggiungere questo ruolo? Cioè, è un ruolo molto ambito in questo ruolo. Ambito. Ma hai studiato, hai fatto esperienza? Cioè, come... L'università apposta. L'università. chiedo per un amico, chiaramente, che è interessato. Ho studiato molto, però i risultati mi hanno gratificato. Beh, d'altronde, se uno si forma professionalmente e dal punto di vista. Greta, beh, giustamente Greta. È stata la tua musa ispiratrice, certo. E che studi hai fatto per diventare quindi accalappiatore di donne? Cioè, cosa si studia? Studiato antropologia. Ok. E l'ambiente. Addirittura l'ambiente. Addirittura. E che connessione c'è tra donne e ambiente? È tutto bello, perché se tu pensi all'ambiente, dopo se tu lo salvi, le donne. Ah, ok. Quindi, no, ma è interessante come filosofia e come modalità di pensiero. E vedi che stranamente ritorniamo sempre lì. Siamo sempre lì. Quindi, se salvi l'ambiente, perché cioè, tu sei ancora della filosofia del principe azzurro, fondamentalmente, cioè che l'uomo deve essere gentile, educato. Ma a questo punto direi di far intervenire le donne del gruppo, che sono due, quindi purtroppo loro due devono parlare. Se anche non avessimo voluto che parlassero, devono purtroppo. E quindi volevamo conferma se la donna di Bienno apprezza l'uomo gentile ed educato oppure no. Allora, in realtà il problema è quello, a me piacciono gli stronzi che si mettono. Ah, ok, detto proprio in francese questo, chiaramente francese nobile, 1500. In realtà c'è un detto Bienno che... Io lo dico in italiano, c'è. Le donne di Bienno vanno, come si dice, non sposate. Te lo dico in italiano e non, te lo dico in italiano e non se lo ricorda, è un momento vanno bellissimo. Non sposate, ma vanno soltanto intrattenute. E come mai? Perché non sono affidabili? A quanto pare. Beh, vedendo Greta, cioè, nel senso, io metterei una mano sul fuoco sull'affidabilità di Greta. Certo, cioè, no. Proprio trasmette questo senso di affidabilità e sicurezza. Mi piace questa ragazza che ha tutte le risposte del mondo e quando le dà le possibilità di darle non le dà. E lascia tutto lì in sospeso. Sapete perché? Ma sarebbe noi perché darti le risposte. Perché non è Greta. Sarebbe noioso Sarebbe? Noioso darti le giusto, risposte. Giusto. Come direbbe un grande filosofo del passato che si chiama Max e cognome. Non avete studiato, ragazzi? No, ma quello è Carlo Marx, questo è Max di nome, filosofo famosissimo, Pezzali, e diceva: io di risposte non ne ho mai avute e mai ne avrò. Vedi che quel testo l'avete letto, no? No, quante ne vuoi? Sì, vedi, questo è un testo basilare della filosofia, cos'è? Non mi ricordo se è greca o latina, però insomma qualcosa di importante. Etrusca addirittura. Quindi le donne di Bienno non vanno sposate ma intrattenute, che è un... Vabbè, insomma, è riadatta, italianizzata. Sabrina sempre pregnare. Perfetto, giustamente devono farsi buona pubblicità. Portiamo l'acqua al nostro mulino. Giusto. E cosa vi differenzia dalle donne tipiche di Bienno, quindi? Siamo Greta e Sabrina. Siete Greta e Sabrina, vedi? Non può dire tutto niente. No, vabbè, noi è un programma. Noi è un programma. Dovremmo tornare dal nostro antropologo per chiedere conferma, ma poi ho paura che si rovini anni di amicizia. Che noi abbiamo una cosa da portare da anni, perché abbiamo detto sempre perché ora che dobbiamo emigrare in gli altri paesi. Ah, giusto. Daniel, dopo al rientro in pullman ti taglio le gambe e te le faccio interessante. No, ma guarda che io ho capito il messaggio del tuo amico, che è un messaggio... No, è un messaggio contrario, cioè lui vi porta in giro come testimonial, come, cioè voi siete la testimonianza della, come dire, della bellezza e della bontà delle donne di Bienno. Cioè lei vi usa come riferimento culturale e come proprio esempio positivo, capito? Invitando a scappare da Bienno. No, non invitando a scappare a Bienno, dicendo guardate noi cosa abbiamo. È antropologo, cioè lui porta, cerca di portare turismo e gente nel... A Bienno è così, bisogna avere certe aspettative delle nostre donne di Bienno. Grazie, apprezziamo tutti insieme. Per quelli che hanno delle aspettative basse invece bisogna emigrare negli altri paesi. Giusto, guarda che lui ci crede, cioè lui ha scritto un testo, cioè che sta scrivendo un libro su questa cosa qua. E no, certo, poi sfonderà in tutte le librerie, speriamo, sì, ferratissima in materia. Allora, volete fare un saluto, volete dire qualcosa ai vostri amici che sono rimasti fuori? Ciao ragazzi, siete bellissimi anche da dentro. Ogni festa che si vede. Siamo sempre più speciali. Oh, speciale. Bene, siete speciali anche voi. Allora ringraziamo il nostro, no, popolo no, però una parte della popolazione di Bienno, e abbiamo detto tante cose. Quello che, come dire, riassume al meglio tutto questo concetto, insomma tutto il discorso che abbiamo fatto, è un discorso lungo che riassumerò in una sola parola: Greta. Ciao a tutti. Ciao. Io aspettiamo la